du hasard sur le quai des foulards. Mystère des regards, un air un peu hagard. À la gare du hasard sur le quai des regards. 5 heures, mais à l'écart, il n'est jamais. Eccomi, senza sigla per questa prima trasmissione di Megaphonics di oggi, 1° ottobre. Iniziamo con la stazione dell'Arzardo di Belladonna 9CH. Plus sans faux plis, des morceaux de ma vie. Fragments d'origami, mon éventail de vie. Je replie sans merci des années de ma vie. On n'apprend pas l'oubli, rien n'est jamais fini. Me gusta el aro. Nous sommes des femmes de tête, on ne pourra jamais nous marcher sur les pieds. Ils font des châteaux de sable avec l'aide du diable qui crache dans le vent la destruction du temps. Les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. Plus c'est haut, moins ça sert. Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres s'y niche. Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres s'y niche. E allora, buonasera a tutti e a tutte. Ecco, dunque stiamo tornando dell'estate, ho voluto chiamare questa trasmissione notizie dell'estate o notizie del ritorno. Infatti, quando si guarda le notizie non sono molte nuove, le notizie ci rimandano come stesse a femminicidi, e si riparla dei stupri di guerra in un Congo distrutto, si riparla delle politiche contro i rom in Europa con le dichiarazioni di un ministro dell'interiore di Lentero in Francia, che non ha di paragona che le dichiarazioni che possono fare i capi dell'estrema destra, una dichiarazione di una xenofobia incredibile. Si riparla della Palestina, si riparla dell'ecologia, si parla delle violenze sessuali, si riparla. E poi ogni tanto c'è una bella notizia. Dobbiamo vedere nella liberazione di Nasrin Sotoudeh, femminista iraniana, un cambiamento. Comunque una notizia che quando si alza la mattina ti fa bene. Baya juru tige, samba ya baya jultige. Dunque loro, les Amazon de Guinée, con questo pezzo che si chiama Samba, un po' già un pezzo già un po' anziano, diciamo, ma comunque fa sempre piacere di sentire. E dalle cose che ho ritenuto per parlare oggi sono due punti. Allora, se, sono due punti importanti che vorrei di cui vorrei parlare, sono le azioni e movimento delle donne nel Notav, e poi una un evento abbastanza importante che è stato il Tribunale dei Rifugiati contro la Repubblica Federale di Germania, dunque un weekend in cui le donne si sono mosse, si è svolto a fine aprile, e poi le donne e altri infatti hanno fatto questo grande incontro all'inizio di luglio per accusare infatti la Repubblica Germania tedesca di non fare il lavoro che dovrebbe fare, e dunque prenderemo un po' di tempo per leggere le loro dichiarazioni. Per quanto riguardano le donne di Notava, vi leggo questo testo che avevano mandato al 26 luglio. E sottofondo metterei questa musica di Camilla Giobane e Sara Muccia, che si chiama Sweet Nomad, di un album che si chiama Naul. No, infatti prendo il pezzo Cam. Camilla Giobane è palestinese e si sono messo a due per suonare violoncello, oud e voci. Kam serna khayfa fanala ajal كم سرنا الهوينا ولم نصل كم قاد الخوف خطوانا مظمأ فلا نجد بئران. Oggi 26 luglio, come attiviste notava romane, siamo andate a contestare Epifani, il segretario del PD pronto a intervenire a un dibattito alla festa dell'Unità di Roma. Dopo le dichiarazioni del senatore piemontese del Partito Democratico Esposito, noto aguerrito sostenitore al pari di tutto il suo partito della costruzione della linea alta velocità Torino-Lione, non potevamo restare in silenzio. Giù le mani della Val di Susa, se tocca una ci toccano tutte. Siamo intervenute in una festa militarizzata da un palco assediato dalle annunciate contestazioni degli stessi giovani del PD. Non li vuole più nessuno. Mentre il corteo notav romano bloccava il Lungotevere, abbiamo dimostrato che la Val di Susa invaderà tutta la città, tutte le città. Oggi infatti in tutta l'Italia la solidarietà è notevole, a Marta è diventata ancora una volta complicità attiva con iniziative e mobilitazioni diffuse, e non sono mancate provocazioni delle forze dell'ordine. Ci vediamo nelle strade e nei sentieri della valle, partigiani del futuro. Forse non tutti sanno che in Italia c'è una grande lotta, la lotta contro il TAV, linea alta velocità Torino-Lione, una lotta popolare che coinvolge migliaia di persone di Val di Susa e di tutto il territorio nazionale. Una lotta che si pone come obiettivo quello di fermare la costruzione di un'opera inutile e enormemente costosa. Una lotta contro la devastazione di un territorio, ma non solo, una lotta contro la devastazione delle nostre vite. Infatti, forse non tutti sanno che un chilometro di TAV costa 164 milioni di euro. In pratica, un chilometro di TAV costa come 1000 case popolari, 3 metri di TAV costano quanto 4 sezioni di scuola materna, 500 metri di TAV costano quanto un ospedale di 1200 posti letto, 226 ambulatori e 38 sale operatoriali. Un chilometro di TAV costa quanto un anno di tasse universitario per 250.000 studenti. Forse non tutti sanno che nella notte fra il 19 e il 20 luglio c'è stata una nuova manifestazione in Val di Susa, una passeggiata notturna verso i retti del cantiere, nel corso di quale è stato un agguato da parte della polizia. Questa operazione ha portato al ferimento di decine di manifestanti, all'arresto di 9 attivisti, 7 delle quali si trovano tuttora agli arresti domiciliari. Forse non tutti sanno che fra questi attivisti arrestati c'è Marta, ragazza pisana che ha subito molestie sessuali durante l'arresto mentre veniva trascinata all'interno del cantiere e che dopo la sua denuncia pubblica ha dovuto subire anche un incendio mediatico scaturito dalle dichiarazioni di Stefano Esposito, senatore del PD, che ha invocato una denuncia per calunnia. Forse non tutti sanno che in un'intervista questo stesso senatore ha dichiarato di essere stupito del silenzio delle donne, quasi ad auspicare di levarsi di qualche donna democratica che si unisse con lui a dittare Marta come pazza, strega, isterica. Ebbene, abbiamo deciso di venire qui oggi proprio per farsi sentire agli onorevoli esponenti del Partito Democratico che le donne in questo paese in silenzio proprio non ci stanno. Forse non tutti sanno che migliaia di donne in Italia hanno deciso di lottare TAV come in mille altre battaglie, che le vogliamo protagoniste nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, nella città e nei quartieri, negli spazi sociali e nelle lotte ambientali. Migliaia di donne hanno deciso di uscire dal caldo focolare e domestico e di scendere in piazza, di gridare per le strade, di occupare le case e di riprendersi ora e tutto quello che gli spetta per costruire un futuro dignitoso. Ebbene, ora sapete che noi in silenzio non restiamo. Scusate. Ebbene, ora sapete che noi in silenzio non ci stiamo, che siamo pronte a batterci e che ci rivedrete in tutte le migliaia di battaglie che ci sono e che nasceranno in questo paese, sempre dalla parte di chi lotta senza paura. Paura, se non con Marta, quando se tocca una, toccano tutte e sarà dura. Donna Notav di Roma, che salutiamo. S'orange, tout est bien, ça nage dans le bonheur, rien ne se mélange. Jamais rien ne change, c'est ça l'avantage, pas de vagues, pas d'épis dans la frange. Puis ça me fait flipper, l'étroitesse de vos rêves, oui ça me fait flipper. Votre machine bien huilée, je voudrais la rouiller. Je sens que je vais partir en vrille dans la tour. Je sens que je vais partir, mais partir tout court. Désolé pour le bordel, désolé pour le retard, désolé me faire la belle, de faire celle qui souhaite rare. Désolé pour le bordel, désolé si je m'égare, si je fais faux bon, faudra pas trop m'en vouloir. Ça glisse, tout est bien, ça casse, pas des briques, jamais ça s'excite. Rien ne pousse le vice, oh rien ne dépasse, on ne se lasse pas, c'est si pratique. Mais ça me fait flipper, l'étroitesse de vos rêves, oui ça me fait flipper. Votre immobilité, je voudrais vous secouer. Je vais jeter un pavé dans la mare, faire des ronds, ricocher. Je vais me jeter dans la mare avec le pavé à mon pied. Désolé pour le bordel, désolé pour le retard, désolé me faire la belle, de faire celle qui souhaite rare. Désolé pour le bordel, désolé si je m'égare, si je fais faux bon, faudra pas trop m'en vouloir. Dommage que j'aurais pu laisser, mais au final tout semble plus léger. L'air rentre et ressort, mon cœur était tout dégonflé. Là qu'il bouge, qu'il dit encore, ne t'arrête pas de respirer. Désolé pour le bordel, désolé pour le retard, désolé me faire la belle, de faire ce qui souhaite rare. Désolé pour le bordel, désolé si je m'égare, si je fais. Pour le bordel, désolé pour. continua con un appello delle sempre donne notav per la domenica 6 ottobre alle ore 15 al presidio di San Giuliano di Susa, dove si terrà un incontro per preparare l'iniziativa di fine novembre Violenza sulle donne, violenza sulla terra. Fate qualcosa. La rete di persone che in questi lunghissimi anni è stata tessuta in Italia e anche all'estero si fa viva con telefonate, email, sms per chiedere che si faccia qualcosa con urgenze, che si materializzi per cercare di arginare la valanga di fango che si è si vede che sono in montagne, scientificamente orchestrata, tenta di sommergersi. Fate qualcosa, ma come? Ancora pensavamo di aver fatto e detto di tutto. Cosa altro ci dobbiamo ancora inventare? Strano come questa domanda rappresenti bene il quotidiano femminile, domanda storica, sempre pronta ad interrogarci a inizio come a fine giornata. Ho dimenticato qualcosa? È tutto a posto? Ho fatto tutto? Come sempre e sempre di più delegate a coprire le mancanze dello Stato sociale. Questa volta in ballo c'è la difesa di un grande movimento popolare, di più c'è una storia di oltre 20 anni, dove ogni giorno è stato vissuto con intensità. Migliaia di persone quotidianamente hanno contribuito a renderla concreta, mettendoci la faccia, portando idee, rendendosi disponibile, finanziandola. Una lotta, un'esperienza di territorio che molti non esitano a definire unica e che è partita e ha messo le sue basi non su un preconcetto ideologico, ma studiando i progetti, i flussi di merci, l'impatto ambientale, i costi, verificando sul campo i dati in possesso. Negli anni è cresciuta anche la consapevolezza di avere fra le mani, di vedere crescere qualcosa che va oltre la semplice opposizione a una grande opera inutile e devastante, un modello di presa di coscienza collettiva che difficilmente può retrocedere, anzi si allarga assumendo in sé tutti i temi più attuali, dal lavoro ai servizi alla sanità eccetera, partecipando e interrogandosi sempre come ora. Ci si interroga sui fatti accaduti, sul significato che tutto questo assume. È un clima pesante, opprimente, e sentiamo soprattutto ingiusto, e tale è la violenza del linguaggio usato, la sproporzione di racconti sui fatti realmente accaduti, che vengono a mancare le parole per spiegare ai nostri figli increduli. Vediamo e sentiamo raccontare dai giornali e TV una storia che non ci appartiene. Non siamo un problema di ordine pubblico, siamo una risorsa per questo paese, siamo una risorsa perché in tutti questi anni il movimento è diventato una comunità critica, consapevole, che sa scegliere. È questo che fa paura? Rivendichiamo il diritto alla partecipazione e alla gestione della cosa pubblica nel rispetto del bene comune e della volontà della popolazione. Fate qualcosa, ci chiedono da tutte le parti. Possiamo per esempio fare due conti. Siamo abituate a far quadrare bilanci e dunque siamo consapevoli dello spreco enorme di denaro pubblico sia per l'opera e sia per la badanza armata all'opera. È evidente che le dichiarazioni dei ministri che si dicono pronti a sborsare laute ricompense facciano venire la colina in bocca a molti imprenditori avvezzi a trafficare con fatture false, giri strani, fallimenti e nuove società a scatole cinesi. A chi ha sperato di guadagnare dagli Olimpiadi costruendo mega hotel che neppure in Riviera potrebbero trovare clientele tali da soddisfare centinaia di posti in letto. Ed ora non ha gli occhi per piangere, per tanto comodo buttare la croce addosso ai notavi, invocare lo stato di crisi sperando nelle compensazioni. Chiediamo alle donne, però non solo alle donne, di prendere parola su quello che sta succedendo. Conosciamo direttamente sulla nostra pelle la violenza, per questo la rifiutiamo. Per questo deve fermarsi lo stupro della nostra valle e deve finire l'autoritarismo militare su un intero territorio. Fate qualcosa, ci verrebbe da ribaltare la domanda e dire voi, noi a voi. Fate qualcosa, aiutateci a impedire lo stato di polizia permanente in cui ci vogliono fare vivere. Fate qualcosa per denunciare questa campagna di stampa che non si pone domande, non fa distinzioni, non esamina fatti e cose decisamente incongruenti che pure sono sotto gli occhi di tutti. Fate qualcosa perché la storia di un movimento popolare con il nostro non venga liquidato manu militari fra le carte di una procura. Stiamo resistendo finché vogliamo andare avanti, vogliamo vivere in pace nella nostra valle, vogliamo raccogliere i frutti di oltre 20 anni di crescita collettiva su tutte le questioni a noi care, il futuro delle prossime generazioni, le risorse del nostro territorio, intervenendo per risparmiarlo, risanarlo, ma non per rapinarlo, mettendo a disposizione le nostre capacità con l'alternativa al consumo dissennato e un uso responsabile e consapevole delle risorse. Vogliamo riappropriarci del nostro tempo per partecipare alla gestione e alla cura della nostra comunità, liberarci dal TAV, donne Movimento Val di Susa, che ringraziamo perché il testo è molto importante, bello, e noi siamo con voi. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Non vorrei togliere troppo a questo evento della caravana, che è stato dunque un percorso da donne rifugiate e profughe in Germania. Si era tenuto il 19 aprile a Amburgo la prima conferenza delle donne rifugiate al tribunale a Berlino. E dunque sarebbe un peccato di non andare un po' più dentro l'argomento, ma volevo comunque, lo faremo un'altra volta, volevo comunque leggere il loro comunicato per fare conoscere un po' questa lotta, cioè questa auto-organizzazione che stanno facendo. Care amiche e sorelle, ognuna di noi porta il dolore del passato. Abbiamo vissuto la povertà, la miseria, la guerra, la persecuzione politica, la violenza sessuale e l'umiliazione. Abbiamo fatto un lungo cammino difficile e adesso ci troviamo qua, nell'immigrazione, in esilio. Negli anni passati abbiamo notato che nella lotta organizzata da noi, rifugiati e migranti, la partecipazione delle donne è molto poca, anche se noi donne subiamo molto più esclusioni, umiliazioni e sfruttamento nel nostro quotidiano come rifugiate, siamo quasi mai associate attivamente alla lotta di liberazione e all'ameliorazione della nostra situazione. La questione della partecipazione, una piccola partecipazione delle donne, è già stata detto al Break Isolation Camp nell'estate 2012 a Erfurt. Le donne che avevamo visitato nei campi di rifugiati ci hanno descritto il loro isolamento, la loro esclusione, le loro paure, anche la mancanza di una lotta organizzata dalle donne rifugiate per i loro diritti. Per questa ragione organizziamo la prima conferenza delle donne rifugiati ponendo la questione su la questione. E come possiamo noi organizzarsi di più e difendere i nostri diritti alla resistenza politica? Nel quadro della conferenza delle donne rifugiate ci piace discutere insieme della situazione nel nostro paese, dei nostri paesi di origine, delle ragioni specifiche per la migrazione o il fatto che abbiamo dovuto sfugare e delle nostre vite in Germania con tutte le leggi sessiste e razziste che ci mettono da parte. La conferenza deve avere la formazione di una lotta di donne organizzate da loro stesse e deve manifestare al Tribunale Internazionale dei Rifugiati contro la Repubblica Federale di Germania nella lotta contro l'ingiustizia coloniale che si terrà a giugno 2013 a Berlino. È per questo che vogliamo mobilizzare e informare questa conferenza e è per questo che vogliamo incontrarvi nei campi di osillazione, nelle case dove siete ospitate e per parlare insieme di questa situazione. Vogliamo anche il sostegno delle donne che lavorano già con la caravana per il diritto ai rifugiati e ai migranti. La conferenza è questo, dunque è un appello per questa conferenza e poi vi rimando fra due settimane in cui parleremo di infatti come si è svolto questa conferenza e forse in Italia si potrebbe coniugare alcune lotte insieme. E con questo pezzo vi lascio e vi ritrovo fra due settimane e vi ridico i pezzi che abbiamo sentito oggi. Sono delle Belladonna 9H, due lesbiche di Toulouse. Abbiamo anche sentito Samba delle Amazon di Guinea. Abbiamo sentito il core Arnaca Feminista di Stoccolma con i Carmela. Abbiamo sentito anche Buridan e un po' di Camilla Giubran e Sara Murcia, su quale ritorneremo per sentire con calma, diciamo. E allora vi lascio con Atti e Misfatti e vi saluto. Buona serata, buon ascolto del martedì. Vi rimetto diciamo un altro pezzo. And it's